Capitolo primo, in cui uno strano personaggio si aggira nella città, per niente contento, dei tempi in cui gli tocca vivere. 1. 16 giugno 1991, città di T. È una tranquilla notte di regime. Le guerre sono tutte lontane. Oggi ci sono stati soltanto 7 omicidi, 3 per sbaglio di persona. L'inquinamento atmosferico è nei limiti della norma. C'è biossido per tutti, invece non c'è felicità per tutti. Ognuno la porta via all'altro. Così dice un predicatore all'angolo della strada, uno dall'area mite, di quelli che poi si ammazzano insieme a 200 discepoli. Ce n'è parecchi in città, dai difensori dei diritti dei piccioni alla Liga Artica. Siamo una democrazia. Ogni tanto, sul marciapiede, si inciampa in qualcuno con le mani legate dietro la schiena. Forse la polizia lo ha dimenticato la notte prima. Ho guardato in alto, oltre le insegne illuminate, e, obliqua, su un grattacielo c'era la luna. Le ho detto, «Cosa ci fa una ragazza come te in un posto come questo?» Poi mi sono fermato all'angolo tra Dulcea e Taganrog, nel quartiere gastronomico. Passava di tutto. Un tombarolo mi ha offerto 2 giacche firmate appena prese ai cadaveri, garantite e disinfettate. Non gli ho dato retta, preso com'ero, da un'interessante visione. Davanti a un ristorante di Dulcea, c'è una grande piastra ammazza insetti a 6.000 volt. Ogni moscerino o farfallone che ci sbatte contro crepa con un brivido elettrico. Mi è venuto da pensare che nessuna morte ormai fa più rumore di questa. Milioni di moscerini, una fiammata e amen. Se hai la fortuna di nascere farfallone, forse si accorgono dei 3 secondi in cui stai morendo. Riflessioni così profonde mi fanno venire appetito. Perciò ho deciso di entrare in quel ristorante. Un ristorante di lusso, di quelli dove si succhiano gamberoni con sottofondo d'archi, non so se mi spiego, tutto marmo, velluto rosa, specchi e candeline. Sembrava la garçonnerie di uno yacht arabo. Il maître mi ha esaminato con metresco disprezzo. Ho fatto finta di niente. «Che pesce avete?» ho chiesto. «Tutto quello che vuole», ha risposto freddamente. «Allora mi porti un piatto misto di mullidi, sgombro moridi, astici, aragne, aspitriglie, velencenielli, caranchi, cozze, castagnole, caviglioni, maranzane, mazzancolle, moscardini, bocche di bue, scrappioni, lote, suri, zerri, zurli, boghe, salpe, costardelle, donzelle, nigricepi, merlani, occhialoni, sparlotti, gatti, ruggine, pappa, sassi, succhia, scogli, spigole, ermafrodite, cerni alessandrine, lofe, budegate, palinuri, elefanti e ostracodermi estinti». Mi hanno cacciato fuori. Di questi tempi è duro fargli spiritosi, se non si è miliardari. Non importa. Nella mia filosofia l'importante è divertirsi. Sapete, io sono un mago Baol.